greatest of our common dangers. It's been unbelievable. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. This is my wife, Mayumi. We're here to answer some questions because they told us you guys might... Questa è la storia per la quale sono andati pazzi gli americani questa mattina, ma mica solo gli americani, un po' tutto il mondo si è sintonizzato, ha cominciato a preoccuparsi, in certi casi ad ansimare, poi a commuoversi attorno alla storia del piccolo Falcon, cose che soprattutto per i media americani sono vero miele, no? Ci si buttano dentro con tutte le scarpe. La storia probabilmente l'avrete orecchiata da qualche parte, in qualche notiziario, la storia del Balloon Boy, no? Il ragazzo del pallone, il figlio di questo bizzarro meteorologo che si chiama Richard Heaney, la voce del quale avete appena sentito pochi istanti fa mentre rispondeva alle domande dei giornalisti, che per hobby ha la passione di costruire oggetti volanti strani, nella fattispecie un pallone in Mylar, uno di questi nuovi tessuti sintetici ultra leggeri, un pallone aerostatico che poi avrebbe dovuto prendere il volo, come l'ha chiamato lui, anzi un veicolo tridimensionale da bassa altitudine. Fatto sta che i lavori in corso per la sua invenzione erano lì nel giardino quando suo figlio Falcon sembra proprio che, non visto dai genitori, sarebbe entrato nella piccola cabina ricavata ai piedi del pallone ed ecco che, sganciate le funi, avrebbe preso il volo insieme a tutto il pallone, facendo letteralmente tenere il sospiro all'intera America. Dove è finito Falcon? Come faremo a riprenderlo? Naturalmente caccia all'uomo, anzi, nella fattispecie caccia al bambino, anzi caccia al pallone, che viene identificato poco dopo a 50 miglia dalla casa nel Colorado del Nord, dalla casa della famiglia Heaney. Viene trovato il pallone, ma niente bambino. Il dramma è dietro l'angolo. Forse Falcon, fidandosi troppo del suo nome, è caduto giù dall'aereo, dal pallone. Bisogna cercarlo, bisogna capire. Cominciano ricerche e battute ovunque, come vediamo nei film, no? Quando avanzano tutti insieme in fila indiana i poliziotti con i cani, le cose. La CNN, Fox, chiunque. Ormai Falcon era diventato un fattore nazionale ed ecco che poi Falcon riaffiora nella soffitta di casa Heaney, dalla quale praticamente non si è mai mosso, quindi forse è salito su quel pallone, ma mica è scemo Falcon, è sceso prima che al pallone venissero staccati gli ormeggi, e lì allora le cose sono un po' complicate e anche gli esperti, no, i navigati anchorman delle televisioni americane hanno cominciato a fare domande un po' scomode, in particolare al piccolo Falcon. He's asking Falcon, did you hear us calling your name at any time? L'hai sentito che ti chiamavano? You did? Eh sì. Why didn't you come out? Eh sì, risponde lui. We did this for the show. E poi dice questa frasetta che Wolf Blitzer di CNN, che non è fesso, coglie con molta acutezza. L'abbiamo fatto per lo show. Che cosa non si fa per lo show? Che cosa non si fa per il mondo dello spettacolo? Che cosa forse un meteorologo non può inventarsi per lanciare magari una carriera per adesso un po' così, un po' in sordina? E sembra che alla fine sia tutto un po', come si dice in Italia, un impiccio, insomma, una idea bizzarra, una montatura, diciamo così, e che il bambino sia stato opportunamente nascosto in soffitta e poi sia stata inventata tutta questa storia, che comunque finisce bene e noi ne siamo felici. La notizia è come, no, con tutta la passione, con tutta l'emotività possibile, non l'America, diciamolo tranquillamente, diciamo l'Occidente, via, in queste vicende cade, no, ci si abbandona letteralmente dentro. There you are up in an aircraft, both engines out. Did you panic? Ma poi parliamo noi che siamo stati i primi a cadere nella vicenda di quest'uomo. Ascoltiamo ancora un momento la voce del grande Chesley Sully Sullenberger. Lo sapete chi è, no? È il protagonista, ve ne abbiamo parlato tanto, del miracolo sull'Hudson, come è stato detto, colui che il 15 gennaio di quest'anno, con un aereo con i motori in panne a causa, dopo il decollo dalla Guardia Airport di New York, di una collisione con delle oche selvatiche che volavano proprio su quella rotta, ebbe la freddezza non di seguire le indicazioni della torre di controllo, che probabilmente l'avrebbero mandato incontro a un disastro, ma ebbe la freddezza di atterrare perfettamente nel fiume Hudson. Freddezza anche perché non era che la temperatura fosse proprio quella ideale, però salvando 155 vite. E da lì il capitano Sully è diventato un eroe nazionale. Ne abbiamo a più riprese seguito le imprese, e adesso ha rilasciato una intervista a CNN piuttosto appassionante, perché il personaggio c'è a tutto tondo. Ha rilasciato una intervista a CNN sul bordo del fiume, sull'argine del fiume, esattamente in corrispondenza dove si è andata a finire, dove si è andata a fermare quel giorno, e ha rievocato la giornalista che, come avete ascoltato, gli chiedeva, ma insomma è rimasto sconvolto, si è spaventato quando ha capito che i motori erano andati. Lui ha detto, beh, è stato, diciamo, una cosa piuttosto sorprendente, però da buon comandante non ho avuto il tempo di spaventare, perché a quel punto avevo una sola cosa da fare: cercare di salvare la gente che aveva messo la sua vita nelle mie mani. La notizia che provoca questa ennesima intervista è che alla fine anche lui c'è cascato, è uscito il solito libro, si chiama Highest Duty, il dovere più alto, e il sottotitolo fa capire che quello che fin dall'inizio Sullenberger ha percorso, ha trovato posto adesso anche in forma cartacea, anche in forma commerciale, ovvero estendere la sua professionalità, la sua capacità a qualcosa di più, a qualcosa che avesse un vero e proprio formato etico, quindi esistere anche professionalmente, anche nel mondo del lavoro, non solo per essere capaci e bravi, ma anche per essere il più empatici possibile nei confronti delle persone che hai in sorte di incontrare. Non a caso il sottotitolo del libro è La mia ricerca per quello che conta davvero. Primo piano. I wasn't kidding about it being hard, but you notice I wasn't kidding, I don't quit. We get this stuff done. Io questo fatto che Obama, che passa la linea Mason-Dixon, come diremmo noi, la linea Maginot, insomma la linea del Po, tanto per localizzare, e comincia a cambiare modo di parlare, un po' mi piace, un po', diciamo, un po' mi fa effetto. Those folks who are trying to stand in the way of progress. Lo sentite, anche se l'inglese non è la vostra prima o seconda lingua, sentite, no, questo accento diverso che mette nel suo modo di parlare. Gli americani lo chiamano twang. I'm not tired, I'm just getting started. Così parlano i predicatori battisti, quelli dei film anni 40, quando dicono ai fedeli state attenti a come vi comportate. Invece è il buon vecchio President Obama, from Chicago, Illinois, quindi profondo nord, che però va a New Orleans e si mette a parlare, come insegna il professor Woody Allen in Zelig, che si mette a parlare come quelli di New Orleans, che infatti lo accolgono festoso. Ne abbiamo ancora, ce n'è ancora, sentiamo. Questo è Yes Weekend, siamo alle solite. Insomma, ha raggiunto con il suo twang il suo effetto. In realtà esce da una settimana, una decina di giorni particolari, no? C'è stato il rovescio di Chicago che perde la candidatura per le Olimpiadi 2016, poi c'è stato quel fulmine a ciel sereno del premio Nobel e il successivo assestamento, come riceverlo nel modo giusto, senza esagerare, il famoso pericolo di esagerare che circonda Barack Obama in questi tempi. Poi la diatriba piuttosto accentuata con la Fox, ormai siamo a divorziati in casa, almeno in termini mediatici, e poi il deciso passo avanti nella questione della sanità, che, come stava appunto dicendo lui nel discorso, stiamo lavorando duramente, il più duramente possibile. Scusatemi e scusate la Casa Bianca se siamo in ritardo con ciò che dobbiamo fare per voi, per una città che più di 4 anni fa è stata devastata da un uragano e ancora aspetta la sua reale partecipazione. Ha parlato in un meeting, in una town hall, in una sala consiliare, circondato da fans plaudenti. Quelle per lui sono terre amiche, e quindi ha circondato, ha concluso una settimana complicata, circondato dall'affetto dei suoi sostenitori. È stato assolutamente convincente, e anche Time, che in questo periodo non è tenero verso il presidente, conclude che ha saputo difendersi in modo credibile, lui, la sua reputazione, il suo lavoro e la sua squadra, rispetto a quanto è dovuto, quanto il grande paese deve a una città che non è mai, no, completamente riemersa da quell'affogamento tragico di Katrina, una città magnifica che si chiama New Orleans. When a child is hungry, Buongiorno America. All you suckers gather round. There's a brand new movie coming to town. So get on up and check the scene of the smoothest, baddest mother to ever hit the big screen. Main man, Black Dynamite. He's super cool and he know kung fu. Lo sapete che il venerdì Buongiorno America si occupa essenzialmente di show business, di spettacolo, di cultura, di cose che gli americani cominciano ad assaporare, non solo loro naturalmente, nella mattinata, per poi magari cominciare invece a consumare seriamente durante il weekend nel quale vanno in massa al cinema, a vedere concerti e a fare naturalmente shopping, anche shopping culturale, anche libri, e poi c'è un Natale dietro la porta, come capiremo tra qualche istante. Ma intanto concentriamoci sul cinema e su questo buffo trailer di un buffo film che vedremo come andrà al botteghino, ma certamente ha risvegliato diverse memorie negli americani, perché è il ritorno del Blaxploitation Movie. I am declaring war on anybody who sells drugs in our community. But Black Dynamite, I sell drugs in the community. Vi do un po' di titoli per farvi capire che si tratta. Ve lo ricordate Shaft? Vi ricordate Superfly? Vi ricordate soprattutto l'indimenticabile Blacula? Insomma, i film fatti dai neri senza più la voglia di piangersi addosso e neanche di mettere in discussione la questione razziale, ma i film fatti dagli afroamericani, soprattutto a cavallo fra anni 70 e 80, in cui la razza diventava una questione di orgoglio, ma anche un motivo su cui scherzare sopra, no? una anche l'occasione per fare della autoironia, e soprattutto un'occasione per prendere in giro proprio il cinema dei bianchi, ad esempio i western o i gangster movie o i film neri, noir, erano film in cui cast di solito rigidamente, tostamente tutti neri rifacevano i generi tipicamente tutti bianchi, in cui il nero magari era solo un coprotagonista un po' di margine. Ed è uscito questo nuovo titolo che rinfresca, no, un po' tutta il genere, questa ondata ormai rimasta un po' sotto traccia. Si chiama Black Dynamite. Una delle stelle del film è quella Arsenio Hall, che forse ricorderete, ha fatto anche il conduttore del talk show che portava il suo nome, quello che ospitò Bill Clinton, che suonava il sassofono. E per di più c'è un dato in più: nel frattempo è passato Quentin Tarantino, che dei film Black è stato un grande cultore, e quindi rientra dalla finestra, ed è un film, un western demenziale, come si direbbe dalle parti nostre, con tanto tarantinismo dentro e naturalmente una vangata di rhythm and blues. I often get asked, how do you know it's time to write another book. I usually answer when I have la voce di uno che è primo in classifica nei libri, una voce giustamente soddisfatta. Lui è bello contento, ed è un titolo anche piuttosto a sorpresa che in questo momento guida la classifica di saggistica del New York Times dei libri letti dagli americani. Figura davanti a Glenn Beck, no? L'editorialista di destra di cui spesso parliamo in questi giorni, la autobiografia di Ted Kennedy, l'autobiografia di Patrick Swayze, libri di cui abbiamo è più volte parlato, ma in testa davanti a tutti c'è questo libro che si chiama Have a Little Faith, trova un po' di fede. Il signore che parlava sopra è l'autore del libro, si chiama Mitch Albom, un cinquantenne comunicatore di professione, uno che si occupa di grandi temi e li approfondisce con un'attenzione ben intensa agli andamenti del mercato. In questo libro racconta la storia del suo rabbino di Detroit, un vecchio 82enne che lo contatta perché chiede a Mitch Albom di scrivere l'elogio funebre per quando arriverà il suo momento. Albom accetta, comincia a frequentare il rabbino perché vuole scrivere delle parole che abbiano un senso, una conoscenza, una profondità, torna a Detroit per qualche settimana e nel frattempo viene avvicinato anche da un altro sacerdote, un reverendo invece nero che lavora nel ghetto di Detroit, lavora con gli spacciatori, i poveri, la gente in difficoltà, e così l'autore del libro comincia a fare un po' questo ping pong, no? Fra il rabbino della parte bene della città e il pastore nero della parte più povera, e in tutto questo raggiunge una conclusione che evidentemente ha convinto e commosso i lettori americani, che quando tanto più l'America, la nazione, la cittadinanza è in difficoltà, torna a tutti un gran bisogno, una gran voglia di credere, insomma torna a galla la fede americana nella sua istanza più pura, no? Più popolare. Santa Claus, here comes Santa Claus, ran down Santa Claus Lane, fixing and blixing and old as reindeer, pulling on the reins. Bells are ringing, children singing, father's merry and bright. Hang your stockings, see your prayers, 'cause Santa Claus comes tonight. Non ci potete credere, la voce è proprio la sua, risposta sì, è proprio lui, è Bob Dylan. Ve l'abbiamo detto che avremmo parlato di Natale con largo anticipo, ci tocca farlo per obbligo, per massimo rispetto, anche per devozione, lo possiamo confessare, perché Bob Dylan, attenzione, è ebreo con una convinzione, insomma, nella propria radice, ha fatto un album che santifica e celebra il Natale, che come sapete spesso è al centro di dibattiti piuttosto roventi dal punto di vista religioso. Lo ha fatto a fin di bene, tutti i soldi incassati dal disco andranno a associazioni benefiche, una americana, una internazionale e una del terzo mondo, insomma soldi sui quali non poggerà neanche lo sguardo, e ha radunato canzoni di Natale, quelle tradizionali, no? Quelle storiche, quelle consumate, quelle di Bing Crosby, quelle dei cori di bambini, che però vengono sottoposte al vaglio della voce sempre più rauca, sempre più roca, sempre più insomma, diciamo, da bordello del lontano West di Bob Dylan, che ci passa sopra con effetti che sono tangibili, perché in realtà questa è la cosa che vi vogliamo raccontare, le trasforma, le rende qualcosa di un po' più sinistro, un po' più da film di David Lynch, mica le cambia, non è che fa quello che gli piace tanto fare con il suo repertorio, ovvero ogni volta rovesciarla, no, le rispetta, le fa suonare per quello che sono, però lì ci passa Bob Dylan e vi garantisco che l'effetto si sente, ed è un effetto straniante, affascinante, come dicevamo, un po' metafisico, ma è l'effetto di un uomo che evidentemente le radici della musica americana le conosce bene. Sentiamolo ancora un po' alle prese qui con un noto blues di Natale. The jingle bells are jingling, the streets are white with snow, the happy crowds are mingling, but there's no one that I know. I'm sure. Insomma, l'invito è quello che potete immaginarvi, alcuni di voi se lo possono fare anche venire in mente, no? Di avvicinare che so, i propri figli, i propri bambini al Natale, transitando attraverso la voce di Bob Dylan, altro che Babbo Natale. Bob Dylan a Babbo Natale neanche gli somiglia, anzi qui è più rauco che mai, no? Somiglia un po' a Tom Waits nei suoi momenti così più pieni di nicotina. Di fatto è la capacità che ha questo artista poi di sorprendere sempre, anche a 68 anni, il suo pubblico, di saper sempre decentrare, no, il proprio sguardo dal mainstream che uno si attenderebbe da lui. Quindi grande poesia americana ormai in odore di Nobel, e invece lui ti sgancia un disco di Natale, di canzoncine di Natale rivissute con la sua band e con il suo approccio, che vi ricordo è di per sé stesso assai particolare, no? Bob Dylan è l'uomo che ha deciso che da oggi fino al giorno della sua morte sarà per sempre in tournée. Invece il tour settimanale di Buongiorno America si chiude qua, ci risentiremo lunedì. Io vi ricordo che in redazione c'è Gloria Guerrera, in regia Valerio Rocchetti a Roma e Carmelo Lauricella a Milano. Io sono Stefano Pistolini, abbiamo una mail a cui potete scrivere, buongiornoamerica@radio24.it, una pagina Facebook per discutere e proporre temi, redazione Jefferson 3, abbiamo una replica dopo mezzanotte, un weekend di fronte al termine del quale lunedì ci risentiamo attorno all'1:30, sempre qui da Radio 24. State tutti bene.